America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. This weekend, together with our allies and our partners, the United States reached an agreement with Iran on a first step towards resolving our concerns over its nuclear program. Barack Obama che annuncia l'accordo con l'Iran. Beh, è arrivato il momento di fare in queste puntate pre-2014 e poi in quelle dei primi giorni del 2014 un po' un bilancio di quello che è successo nel 2013, cosa ci aspetta nel 2014? Beh, una delle tematiche chiave resta quella del Medio Oriente. Abbiamo sentito Barack Obama che parlava dell'accordo con l'Iran, è stata una svolta storica, è stata la svolta più importante del 2013 dal punto di vista non solo di quello che è successo in Medio Oriente, ma dal punto di vista veramente di quegli eventi che saranno ricordati nella storia. Speriamo che porti a qualcosa di positivo, perché ovviamente ci sono state anche delle reazioni non molto favorevoli, anzi assolutamente negative, diciamolo pure, da parte dell'Arabia Saudita, da parte di Israele. La tensione resta, il Medio Oriente è un calderone che continueremo a così esplorare in tutte le sue ribollature nel corso dell'anno che viene. Ma veniamo ai fatti salienti di quest'anno 2013. Intanto il 10 settembre 2013 la Siria accetta di consegnare le armi chimiche alla comunità internazionale. Lì c'è stato l'intervento della Russia dopo che c'era una minaccia di un attacco militare mirato americano. Putin ha dominato, devo dire, il 2013 e ha imbarazzato spesso Barack Obama, dimostrandosi Putin un leader molto più ferrato e con un pelo sullo stomaco non da poco. Valid Muallem, ministro degli esteri siriano, che dice: abbiamo ascoltato la proposta russa, l'abbiamo ascoltata positivamente perché il governo ha a cuore il bene del popolo siriano, la nostra sicurezza nazionale. Inoltre abbiamo fiducia nella Russia e nel suo impegno a prevenire un attacco da parte degli Stati Uniti. Questo è stato il primo cambiamento propedeutico al secondo, cioè all'accordo con l'Iran, che giunge il 23 novembre del 2013 a Ginevra, il 5+1, firmano uno storico accordo con Teheran per la sospensione dell'arricchimento dell'uranio a scopi militari. For the first time in a decade, we've halted the progress on Iran's nuclear program. Key parts of the program will be rolled back. Sentiamo Obama: per la prima volta in un decennio abbiamo fermato il programma nucleare iraniano. Alcuni progressi chiave del piano saranno rovesciati, ispettori internazionali avranno accesso senza precedenti alle strutture di arricchimento dell'uranio. Questo impedirà all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Nel frattempo la nostra diplomazia continuerà a lavorare al raggiungimento di un accordo definitivo per mettere fine al piano nucleare iraniano una volta per tutte. Ecco, io di Medio Oriente ho fatto una chiacchierata con Tamara Kaufman-Wittes, che è il direttore del Saban Center for Middle East Policy al Brookings Institution. La Brookings Institution è un centro studi molto importante della capitale. Il Saban Center for the Middle East Policy è appunto un centro per le politiche medio orientali, uno dei più accreditati negli Stati Uniti d'America e dunque nel mondo. Allora chiedo a Tamara: che ruolo ha in questo momento l'amministrazione? Un ruolo attivo o piuttosto confuso? Perché insomma le polemiche ci sono state. I don't think it's a confused role. I think that the administration is trying to thread the needle, if you will, between. Non penso che sia un ruolo confuso, dice Tamara. Credo che l'amministrazione stia cercando di mantenere un non facile equilibrio tra la pressione interna degli Stati Uniti, di chi non vuole che l'America sia di nuovo trascinata nelle questioni medio orientali, in delle guerre, da una parte, e dall'altra la pressione all'interno dello stesso Medio Oriente da parte degli alleati che chiedono un ruolo più attivo degli Stati Uniti. E l'amministrazione Obama sta cercando di mediare tra queste due forze attraverso la diplomazia bilaterale e multilaterale allo scopo di raggiungere importanti obiettivi sul piano della sicurezza. E qui insisto con Tamara perché dico, tuttavia quello che ne esce è un segnale di incertezza. L'Arabia Saudita è scontenta, il piano strategico in Siria è improvvisamente cambiato, Israele è infelice e adesso l'accordo con l'Iran. I'm not sure that's accurate. I think that the administration perhaps was not as honest in public as it might have been. Tamara di nuovo dice di non essere così sicura che ci sia tutta questa incertezza. È positiva, è favorevole a quello che fa l'amministrazione. Cioè, credo che l'amministrazione forse non sia stata completamente trasparente in pubblico sui limiti di quanto fosse disposta a fare in Siria, ma credo che fosse chiaro dall'inizio che gli Stati Uniti non erano disposti a intervenire militarmente per rimuovere con la forza Bashar al-Assad, ma erano disposti ad impegnarsi insieme ai partner dell'area e con l'opposizione siriana per provare a raggiungere una soluzione democratica. Certo, con l'evoluzione del conflitto la priorità americana è diventata la fine della guerra per via degli effetti negativi sull'intera regione, sulla Turchia, sulla Giordania, sull'Iraq, sul Libano, su Israele. Quindi gli Stati Uniti oggi sono concentrati sulla gestione e il contenimento del conflitto. Ora ci sono attori nella regione la cui priorità non è la gestione del conflitto, ma il cambio di regime. Ma questa non è la priorità degli Stati Uniti ed è stato sempre così, secondo me, fin dall'inizio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, il Natale è appena passato, ma voglio restare in spirito natalizio, perché insomma il 25 e il 26 le puntate non ci sono state, ma voglio recuperare ancora un po' quello spirito natalizio che qui a New York si vive con grande intensità. E dunque ancora qualche canzone di Natale. Willie Nelson, Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.